Nelle parole su un tram di Milano, di Roma, cogli la stanchezza, i potenti rubano, le tasse opprimono, i medici sbagliano, i figli abbandonano. Mai però l'eco di una coscienza in cui si riconosca che noi non siamo innocenti, che il male non è solo quello degli altri, ma anche il nostro. Insomma, a me ha fatto molto riflettere questo episodio, questi episodi di cronaca, poi vivendo in una città come Milano, se ne vedono tutti i giorni. Quando cede l'argine, questo è Marina Corradi sul prima pagina di Avvenire. 24 mattino, l'intervista. Alle 8:24 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare uno degli esponenti di spicco del Partito Democratico, Sergio Chiamparino. Buongiorno Chiamparino, benvenuto. Buongiorno. Senta, le piace l'offensiva di Bersani che ieri ha detto basta al fango, ora quereliamo? Ma guarda, è comprensibile, anche perché diciamo l'atteggiamento dietro l'atteggiamento che c'è stato del PD e di Bersani stesso di fronte alle vicende che stanno coinvolgendo esponenti importanti del partito è stata significativamente diversa rispetto a quella di altri. Anziché far finta di niente, scrollare le spalle, accusare la magistratura, insomma Penati si è fatto da parte, si è dimesso da vicepresidente del Consiglio regionale e Bersani ha dato un segnale chiaro, lui ha fatto capire che non pensiamo di essere esenti dal rischio della questione morale solo perché ci chiamiamo democratici e non in un altro modo. Che insomma la questione morale deve essere è un risultato che si ottiene con la politica e non per ragioni genetiche. Quindi è comprensibile la reazione. Sì, ma anche questa della class action, perché ad esempio la class action molti sono un po'... questo io stavo guardando i giornali, sì. Non so, che mi sembra più, come dire, un segnale anche per tentare di diciamo coinvolgere i militanti e gli iscritti che non un'azione che possa avere un fondamento giuridico in sé, ma io questo non sono in grado di dirlo, insomma mi sembra un modo adeguato ai tempi per dire l'attacco è duro, diciamo, bisogna reagire in maniera per coinvolgere i militanti. Ecco, tra l'altro, perché secondo per esempio Repubblica lo sfogo di Bersani, uso le sue parole, sarebbero attribuite a lui, sono questi: mi sembra che qui vogliano buttare tutto in vacca, come dire sono tutti ladri e poi ecco, lei coglie questa sensazione? Cioè... è evidente che il clima è questo, però diciamo il dove secondo me bisogna fare un passo in più è che non basta dire ci vogliono far apparire tutti uguali, bisogna essere credibilmente portare avanti un progetto politico, come ho visto per esempio invito a fare anche lo stesso Eugenio Scalfari che governa in Repubblica proprio stamattina, e che affronti i nodi strutturali in cui si annette la questione morale, perché insomma, che non ci sia nessuno che ne è fuori per ragioni genetiche siamo d'accordo, ma il fatto che però sistematicamente a cicli, come si presenta nelle congiunture economiche, si presenta questa esplosione che coinvolge tutti e se mi permette rispetto al 92 oggi è persino più grave, perché oggi non sono soltanto i politici, ma non c'è settore della burocrazia pubblica, non c'è settore di tutte le funzioni dirigenti della società che si può dire che sia esente da questa contaminazione. Andiamo a vedere quali sono i nodi strutturali dal partito, diciamo così, che dovrebbe, potrebbe credibilmente essere domani l'alternativa di governo in questo paese. Io credo che il passo in più che si chiede sia questo. Comunque lei dice già il peggio del 92, insomma questa è più pervasiva. Sì, perché mi sembra, cioè allora come dire, per certi aspetti era più concentrato strettamente sulla politica. Oggi invece mi pare che, perché adesso noi non possiamo, ci sono le vicende attuali, ma se pensiamo alla cricca di cos'è un anno fa, ogni anno è venuto fuori che poi alla fine in molti casi la burocrazia pubblica, quella che spesso conta di più dei politici, non è che sia esente da queste contaminazioni. Io credo che la questione sia che in Italia, adesso per dirla così, c'è troppa politica e c'è troppa politica nella società, c'è troppa politica nell'economia e che ci sono quindi troppe zone grigie in cui si può annidare il malaffare, in cui si possono annidare i reciproci condizionamenti. Lei per esempio ha fatto, una proposta concreta, ha detto diamo un segnale noi del Partito Democratico, aboliamo l'autorizzazione all'arresto, no, alle recenti polemiche sulla questione. Ah, sì, io ho visto che poi è stata ripresa, discussa, per esempio Enrico Letta in parte la ripresa per rilanciare l'idea che questo tema venga affidato a un organo terzo, alla Corte Costituzionale, alla Cassazione. Guarda, io, come lei ha ben inteso, ho voluto dire, noi dobbiamo anche lanciare un segnale forte su quel terreno. Io personalmente, pur capendo le ragioni per le quali un parlamentare, diciamo, non può essere arrestato, potrebbe non dover essere arrestato come un qualsiasi altro cittadino, perché è un parlamentare, è un eletto, è il più alto livello di rappresentanza della democrazia in Italia. Mi chiedo però se oggi le ragioni che ai tempi della Costituzione vi erano per mantenere questa condizione pure di privilegio, di giusto privilegio, esistano ancora, e se non sia il caso anche per ritrovare ad avere quell'autorità morale che la politica purtroppo e lei ha dei dubbi sul fatto che esistano ancora queste condizioni? Ma sì, perché io faccio sempre esempio, un tempo allora era l'immunità parlamentare, ma anche solo l'autorizzazione per l'arresto preventivo, sta dentro un filone che nasceva dal fatto che era giusto che quando nella società c'erano, faccio questo esempio più netto, i latifondisti, i braccianti, spesso l'avvocato socialista era l'unico che veniva eletto in Parlamento, era l'unico che poteva difendere chi nella società non aveva difesa, ed era giusto che se un latifondista gli montava contro una storia fatta, che sono io, di donnine piuttosto che di tangenti, per metterlo in difficoltà, era giusto che l'organo sovrano, il Parlamento, valutasse se c'era una fumus persecutionis, se questo era, perché era un modo anche per tutelare le parti più deboli della società. Sì. Mi chiedo se oggi questo c'è ancora. Tempi un po' andati. Però ripeto, è una discussione da fare, ma bisogna almeno, anche su questi terreni, aprire una discussione. Io non pretendo ovviamente di avere la verità in tasca, ma così come altri temi più strutturali. Io per esempio ho fatto 10 anni il sindaco, se dovessi dire l'esperienza che ne ho fatto, che spesso il comune quando si occupa di questioni, quando fa l'imprenditore, perché è azionista di maggioranza in una società, spesso fa male sia l'imprenditore e sia il difensore dei cittadini, che è suo compito altrettanto importante, perché poi non riesce a fare le due cose insieme. C'è troppa commistione, c'è il rischio di questa commistione. Per esempio tutto il tema delle liberalizzazioni ben fatte, delle privatizzazioni ben fatte, insisto sul ben fatte, perché non si tratta né di buttare via il patrimonio pubblico né di sprecarlo, e né di fare liberalizzazioni che poi di fatti sono trasferimenti di monopoli dal pubblico al privato. Ecco, se si fa le cose, io penso che quello sia un modo per combattere strutturalmente le condizioni in cui può allineare la corruzione. Io nel salutarla, Chiamparino che farà domani? Nel senso, lei si candida al Parlamento? Adesso guarda, io sono qui sono a Torino con mio figlio, mia nuora, la nipotina, e programmato un'estate sabbatica. Vabbè, ma poi cosa farà? Il Parlamento, non so, la prossima legislatura? Ma a parte il fatto che non si sa quando si vota, io sono in pensione, io sono iscritto da luglio sono iscritto allo SPCGL perché ho ottenuto la pensione dell'INPS, quindi... Va bene, fa il pensionato. Tremonti le tocca le pensioni. Cioè, la mia condizione, se ci fosse il censimento, sarebbe di pensionato. Quindi, quando viene l'incaricato dell'ISTAT per il censimento, la mia risposta sarà: sono pensionato. Naturalmente contribuire alla svolgere il servizio pubblico anche come pensionato. Intanto la ringrazio per essere stato con noi. Ringrazio lei. Sergio buongiorno. Chiamparino, ex sindaco di Torino, come sapete, esponente del Partito Democratico. Ci fermiamo alla pubblicità e meteo e poi parliamo di questo orrore di Oslo. Il killer rischia 21 anni, questo dicono i giornali. Vi sconvolge questa cosa tra poco. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:36 minuti, vogliamo parlare allora di questo orrore che è avvenuto in Norvegia, che ha sconvolto tutta l'Italia, ha sconvolto tutto il mondo. Beh, certo, perché sui giornali da giorni si punta sul fatto, con polemiche, anche a dire: ma come, per il sistema carcerario, per il sistema della giustizia norvegese, il killer Breivik rischia fino a 21 anni di carcere? Qualcuno dice estendibili fino a 30, ma è davvero così? E soprattutto, questa cosa vi scandalizza? Questo vi ci chiediamo oggi. Io sono o blanco o negro, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero? E guardate, non abbiamo problemi qui ad affrontare tutti i temi, anche di quelli che dicono, e sono in tanti certamente, consegnatelo a noi, o ci vorrebbe la pena di morte in questi casi. Per questo io ho chiamato, voglio salutarlo, Sergio D'Elia, che è il segretario di Nessuno Tocchi Caino. Buongiorno D'Elia. Buongiorno. Si occupa ovviamente di questi temi da sempre. Saluto anche Paolo Granzotto del Giornale, opinionista del Giornale. Granzotto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Io però vorrei dare la precedenza, lo ringrazio, dalla Norvegia voglio salutarlo, è un collega, si chiama Simen Ekern del quotidiano norvegese Dagbladet, parla un ottimo italiano, mi ha detto la nostra Elisabetta Fusconi. Simen, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Spero ovviamente nella pronuncia giusta. Allora, intanto se ci aiuta a capire se è davvero così, 21 anni di carcere il rischio, e se questo tema è affrontato in Norvegia e come. No, è vero che la pena massima prevista dal codice penale norvegese è di 21 anni. In realtà però il diritto norvegese prevede che un condannato possa anche restare in carcere oltre i 21 anni solo se viene considerato ancora pericoloso per la società. In quel caso la pena può essere prolungata di 5 anni in 5 anni, teoreticamente all'infinito, anche se fino ad ora non è mai successo. Quindi c'è anche quest'altra possibilità di una condanna di 30 anni per crimini contro l'umanità, e gli esperti adesso stanno discutendo se questa valutando essere... Ma questa cosa fa scandalo in Norvegia, cioè il fatto 21 anni per circa 80 vittime, insomma qualcuno ha fatto anche dei brutali calcoli, 3 mesi a vittima, oppure è una questione che dal punto di vista della società norvegese è accettata come una cosa normale, insomma? No, certo, cioè, è chiaro che non esiste una condanna che possa essere considerata giusta in un senso per un tale crimine, cioè, non so, proporzionale almeno, ci vuole l'inferno di Dante, no? Però è un forte sentimento nel dibattito norvegese che il sistema penale non è fatta per rispondere con la stessa misura, non è solo un atto di vendetta, no? E penso che più visibile adesso è questa voglia di difendere il sistema norvegese esistente, anche come una certa prova di forza o per difendere le nostre regole, soprattutto adesso quando qualcuno ha cercato di distruggere certo, nostra società. Beh, interessante, è un po' l'approccio di Nessuno Tocchi Caino, no? Il motto stesso, D'Elia, di Nessuno Tocchi Caino, proprio è facile difendere una persona magari presunta innocente, ma è proprio nel momento in cui c'è un killer così efferato, così brutale, che ha ucciso così tante persone, che lì sta la forza di difendere un principio. Il principio, per esempio, di dire no alla pena di morte, sia una pena che sia giusta. D'Elia coglie lo stesso invito che dice il nostro collega da Norvegia, a dire il sistema norvegese proprio in questo momento dice: ribadiamo la giustezza di questo sistema perché è la nostra forza, o è un discorso un po' tutto capzioso? Beh, intanto Nessuno Tocchi Caino non vuol dire difendere l'assassino, nessuna simpatia, nessuna solidarietà, nessuna indulgenza nei confronti di chi ha compiuto un crimine efferato. Semmai è il modo per dire che lo Stato, la comunità che noi siamo, non può degradarsi al livello del comportamento di chi ha attentato alla sicurezza sociale e alla convivenza civile. Per il resto io non ho da aggiungere nulla a quello che ha detto il vostro collega norvegese, se non ribadire quello che non soltanto lui ha detto, ma anche le massime autorità dello Stato. Io ho visto una dichiarazione del Premier norvegese Stoltenberg che dice: risponderemo agli attacchi con ancor più democrazia e più apertura, però aggiunto, ma anche rivedendo le misure di sicurezza. Il momento della pena e l'entità della pena in questi casi davvero è incommensurabile, imparagonabile alla gravità, alla profondità e all'efferatezza del male che è stato arrecato. Sì, non è sul piano della pena che si risponde, ma sul piano, come ha detto Stoltenberg, della sicurezza, rivedendo le misure, garantendo più sicurezza sociale, che credo sia quello che chiedono. Allora, vediamo Paolo Granzotto, non è sul piano della pena che si deve rispondere. Paolo Granzotto sul giornale è uno che non è neanche, noi l'apprezziamo sempre, ti apprezziamo per questo, insomma, non ha mai paura di dire anche la sua idea, anche quando magari è controcorrente, oppure è in favore di corrente. Granzotto, chiedo conferma se è un po' la sensazione anche popolare, di molti, molto diffusa, a dire, ma che stiamo dicendo? 21 anni, anche se abbiamo scoperto che sono poi reiterabili di 5 anni in 5 anni, 21 anni per un crimine del genere. Granzotto. Sì, io mi scusi, io non ho sentito l'intervento né del, del collega né di Delia. Adesso miglioriamo l'audio. Grazie. Mi puoi riassumere? No, sia Siemenecker che Sergio Delia dicono è la forza del sistema. Anche Siemenecker dalla Norvegia dice proprio in questo momento il sistema democratico norvegese vuole ribadire la forza, la giustezza di questi 21 anni, anche se certo possono apparire una pena, nessuna pena può apparire una pena giusta se si vuole commisurare in termini stretti di anni. Sì, no, io non capisco cosa c'entri la democrazia, sistema democratico con 21 anni ad un ultra pluro omicida, e soprattutto, non so, gli ascoltatori avranno visto le fotografie pubblicate dai giornali, soprattutto con, diciamo, l'istituto carcerario dove Breivik dovrà scontare la sua brevissima stagione di pena. Sì. Quindi sia questi pochissimi anni, sia diciamo questa cella che sembra una camera d'albergo, ma qui non esagero, non faccio dei paradossi, con tutti i comfort, la televisione satellitare, l'angolo della musica, eccetera, suonano un po' come un'offesa per quell'ottantina di ragazzi e di adulti che questo signore, questo Breivik, ha ucciso e che sottolineano il valore veramente del sistema, della società aperta, del sistema norvegese. E mi sembra che sia innanzitutto un'offesa profonda nei confronti, perché io capisco non toccare, nessuno tocchi Caino, ma qui per non toccare Caino c'è un disinteresse totale nei confronti degli Abeli. La detenzione è una pena, è un castigo. La detenzione nasce come vendetta, no? Ci sono peccati, crimini che gridano vendetta al cospetto di Dio, c'è scritto sul Vangelo. È una forma di vendetta. Ora, se la vendetta diventa una specie di arresti domiciliari, se non c'è un qualche cosa che sottolinei che quello di Breivik è un castigo per quello che ha fatto, perché ha rotto un equilibrio della società, perché si è comportato in modo bestiale, non vedo cosa c'entri il sistema democratico. Ma Granzotto, però lei cita il Vangelo e tutto, però che ne facciamo di Beccaria, di tutto i secoli di civiltà che abbiamo poi avuto, insomma, della pena come, non come vendetta ma come riabilitazione, del recupero? Si continua a dire che la pena deve riabilitare, non è né riabilitante, lo sappiamo, non è nemmeno un deterrente, perché se la pena fosse un deterrente non ci sarebbero più crimini. La pena è una pena, è un castigo. Un castigo. Quindi anche il fatto di vedere questa cella con la TV, col frigorifero, con la musica, è insulto. Offende, è un'offesa. Un po' offende. E poi qui, più la pena è confortevole, di breve durata, più si minimizza, cioè si stempera il peso sociale della colpa. Ed è questo, secondo me, il modello. Cioè nessuno è colpevole, nessuno è colpevole. Allora, il modello scandinavo da noi corteggiato. Sì. Sentiamo, però oggi Filippo Facci fa un interessante commento in prima pagina di Libero, da cui voglio ripartire dopo il traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, detto che il 62% dei nostri ascoltatori si dicono scandalizzati, sì, effettivamente, da questa pena che appare troppo mite, ma era abbastanza probabile che finisse così. Oggi Filippo Facci in prima pagina su Libero, cioè le nostre galere sono peggiori di quelle di Caracas, con detenuti schiacciati in tuguri, che si suicidano, che una volta usciti ricominciano tranquillamente a delinquere, ma abbiamo il coraggio di fare ironia sulle carceri norvegesi, colpevoli di essere troppo belle, troppo civili, spaziose, con internet. Intanto non si dicono due cose: uno, che il sistema norvegese è straordinariamente elastico, 21 anni è solo la base giuridica, ma una persona pericolosa, se necessario, la tengono dentro anche tutta la vita; e due, la percentuale di recidivi nei due anni successivi alla scarcerazione in Norvegia è del 20%, da noi il 60%. Ma siamo molto più ironici. Allora, Simon Ecker, è davvero così? Intanto la questione anche del carcere, questo carcere definito come un carcere che è un hotel di lusso, anche questa è una forza del sistema norvegese a dire, ma che dobbiamo, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo buttarli nella fossa, i carcerati, invece che recuperarli? Sì, ma in un senso... Sì, è vero che le prigioni in Norvegia possono essere moderni e comodi, ma non sono come villaggi vacanze. È un po' una esagerazione questa cosa, anche se c'è questa nuova carcere che è un modello carcere dove hanno provato di farlo ancora più, non so, sì, moderno e anche civile. Però bisogna dire comunque che adesso l'assassino si trova in isolamento totale nella prigione vicino a Oslo, in una stanza non tanto diversa dalle celle nelle prigioni di massima sicurezza che ho visto in Italia. Non può avere contatti con nessuno tranne l'avvocato e un prete, e non avrà la possibilità di parlare con altri, anche per evitare la possibilità di propaganda delle sue idee. Cioè, bisogna dire che non è che noi siamo tutti tranquilli e contenti a dare la televisione e l'internet, certo, a Breivik adesso, no? Cioè, c'è anche in Norvegia un movimento di persone, la società civile, che dice forse per il crimine commesso da questa persona ci vorrebbe una pena o un atteggiamento un po' più duro nei suoi confronti. No, esiste, però come ho detto non è tanto visibile. Credo che appunto in un senso c'entra la democrazia, o almeno la sistema norvegese, che vogliamo proteggere anche quando c'è uno che vuole distruggerla, e perciò c'entra, secondo me, almeno sembra che per la popolazione norvegese c'entra, che proprio adesso non vogliamo cambiare. Perché... Beh, ma guardi che lei ci sta dando una lezione, cioè è una lezione di civiltà straordinaria, voglio dire, nel senso, vorrei chiedere conforto anche a Sergio D'Elia, è la stessa questione di quando tutti ci chiedono consegnatelo e facciamo un'esecuzione in piazza pubblica perché deve punire, insomma, la forza di uno Stato, di una civiltà, la forza di una società è quella di dire: io posso capire tutti gli istinti anche di vendetta, magari delle persone che vengono colpite, soprattutto nei familiari, che sono... però io Stato non ti permetto che tu, individuo magari colpito nei tuoi affetti, possa scendere a questo livello, se no scendiamo e torniamo al Far West, al Medioevo, e farti giustizia da solo. Cioè la forza della società norvegese è dire questo, Delia, no? Dire: noi proprio in questo momento vogliamo difendere, in questo momento in cui siamo più sotto attacco e sotto critica, difendiamo i valori per i quali abbiamo creato questa società. A me sembra una straordinaria lezione di civiltà. Invece Granzotto dice: no, ci vorrebbe una pena, un castigo più duro, altrimenti questa è un'offesa per le vittime. Delia. Beh, guardi, mi pare abbastanza inutile la mia presenza in questa trasmissione, ascoltando le cose che lei sta dicendo. L'editorialino di Facci che lei ha citato, le cose che ha detto, non soltanto credo che siano opinioni personali, ma siano abbastanza diffuse in Norvegia, il nostro amico norvegese. Beh, cosa c'entra la democrazia? Beh, io cito semplicemente, ricordo spesso un filosofo, Voltaire, che diceva: se volete conoscere davvero un paese dal punto di vista della sua civiltà, della sua umanità, non fatemi vedere i palazzi delle istituzioni, fatemi visitare le prigioni. Poi, appunto, il nostro amico norvegese ci ha detto che altro che brevissima stagione di pena, come ha detto Granzotto, rischia di stare a vita. 5 anni, dopo i 21 rischia di andare all'ergastolo, eccetera. Non sta in una cella che è una camera di un albergo a 5 stelle, ma come ci ha detto poco fa il giornalista norvegese, sta in isolamento e rischia di starci. Non ha internet e probabilmente non lo avrà mai per il resto della sua vita in carcere. E poi la cosa enorme che Granzotto dice è: la pena deve essere una vendetta. Beh, in nessun ordinamento giuridico di qualsiasi paese, sicuramente dell'Unione Europea, a partire da quello, dalla nostra Costituzione, dall'ordinamento italiano, si prevede la pena come castigo, sì, o come, cioè dice, nasce come vendetta. Cioè non sì, appunto, ma oggi l'evoluzione del sistema giuridico, appunto, di quello che diceva Voltaire, sì, delle civiltà dei paesi, è che non lo è più. Si misura in questa sfida, è una sfida, fare della pena non un momento della vendetta, ma un'occasione per comprendere la gravità, la profondità, l'efferatezza del male che è stato arrecato. Quindi da questo punto di vista Breivik forse ha bisogno più che della pena di morte, della pena di vita, cioè di tutta una vita nelle condizioni in cui gli sarà concesso farla, sì, e non saranno quelle di un albergo a 5 stelle per meditare cosa ha fatto. Sentiamo, poi ne parliamo fra 21 anni. Sentiamo Giuseppina da Modena, buongiorno, ci ha chiamato. Sì. Giuseppina, buongiorno a voi. Niente, io ritengo, cioè, non sono scandalizzata in questo senso, che se effettivamente questo criminale sconterà i suoi 21 anni più tutti questi 5 più 5 che sì, ci saranno, avrà modo, appunto, come diceva il suo ospite, di riflettere su ciò che di terribile ha fatto, perché non c'è dubbio che ha distrutto intere famiglie, quindi c'è un dolore delle famiglie. Cioè non la scandalizza, a parte che abbiamo scoperto, appunto, che non saranno 21 anni, ma se anche fossero 21 anni, che è il massimo della pena, questa cosa però per visto molti... Che da noi, visto che da noi per incalliti criminali, anche per quanto riguarda Cosa Nostra e tutte le organizzazioni criminali che ci sono, con vari sconti via via, e poi in fin dei conti sappiamo bene che scontano pochi anni, insomma, addirittura no, c'è anche un collegamento con l'esterno. Ecco, non è però sempre così, Giuseppe. In alcuni casi succede, però ci sono ergastolani, no? Quelli che hanno fatto le stragi. Esatto, però sa anche bene che poi c'è un collegamento con Pizzini con l'esterno, dicendo. Se invece questa persona viene isolata dal resto, dal contesto esterno, dice almeno li fa questi anni. Esatto, allora vorrei, grazie Giuseppina. Sentiamo anche Luigi da Milano, buongiorno. Buongiorno Milan. Mica. Ascolti, io penso che in questi casi, quando si tratta con persone di questo genere, non si deve parlare troppo né di possibilità di recupero, né di possibilità di redenzione, né di punizione. Qua o lo si faceva fuori quando si arrivava sull'isola, o ormai non è importante quanti anni fa, cioè l'importante è che la società si difenda da persone di questo genere. Per cui, se i 21 anni sono sufficienti per difendersi, ben venga, se no aumenteranno. Perché o lo si faceva fuori subito, adesso non ha senso stare a discutere, recuperiamolo, sì, si redima, questo è un pazzo furioso, cosa vogliamo no, discutere? Certo. Il problema, quello che dice anche Simenecker, è che adesso la società, insomma, risponda, come ha detto il premier norvegese, con maggiore sicurezza, insomma, per evitare che succeda ancora. Ecker, io per concludere, ho 30 secondi, non so se le parole di Borghezio siano arrivate, poi Borghezio ieri ha chiesto scusa a tutti i norvegesi se con le parole dette qui a Radio 24 un paio di giorni fa alla Zanzara di Cruciani, insomma, hanno aperto anche un'inchiesta a Milano. È arrivata questa eco delle parole di Borghezio, che ha detto le idee di questa persona sono condivisibili, le idee di fondo, non certo le azioni, ma le idee di fondo? Sì, sì, è arrivato, e purtroppo non è solo, come abbiamo sentito anche in Francia c'è stata questa cosa, Sicuramente non... Non ha fatto piacere, questo certo. Ma come, ha reagito anche qualche autorità, oppure avete... oppure lei che ne pensa, insomma, dei norvegesi, insomma, è uscito su qualche giornale? Beh, secondo me è anche... Non è così strano, perché quando uno legge il manifesto di questo uomo, non sono tutti idee così estranee dalla società in dove viviamo adesso, cioè in Europa e in tanti paesi esistono queste idee certo. dell'Islam come però il fatto che le dica un eurodeputato questa cosa non ha... Sì, ovviamente è una cosa che prova che non è solo sull'internet, nei posti oscuri che uno pensa così, e lo trovo... Beh, lo trovo molto strano, devo dire. Molto strano. Intanto io mi fermo qui ringraziando tutti, da Simen Ekern del quotidiano norvegese Dagbladet, avete sentito, italiano davvero perfetto, e la ringrazio per essere stato con noi, con Sergio D'Elia e Paolo Granzotto. La linea va a Oscar Giannino, i ringraziamenti alla Elisabetta Fusconi e Laura Faggini in redazione, anche al nostro Franco Piantanida che è di là dal vetro, con il nostro Paolo Corleone. Tutti siamo una folla festante, anche perché manca un giorno, io poi vado in vacanza, e quindi Oscar Giannino, però domani ci sono.